allontana il cellulare, fammi vedere, in alto a sinistra, file, sì. Ecco qua, fai il save, save project, save project, ok. Sento, sì. Ehi, maestro. Si sente? Sì, si sente o non si sente? Però... Ora dobbiamo fare in modo che io sento la qualità. Ok. Non lo so come dobbiamo fare a risolvere questo problema. Allora, vai in basso a destra, a fianco dove c'è il piccolo orario, dove c'è il piccolo orologio, dove c'è tutte queste icone. Non lo so se tu hai l'icona del microfono, dell'altoparlante. C'è l'autoparlante, sì. Lo vedi? Sì. C'è scritto questo adesso.